Ciao Gigi, sono Alberto di Milano. Suonami Impressioni di settembre. Vorrei dedicarla a mia moglie, ma sono sicuro che anche il cielo l'apprezzerà. Grazie Gigi. Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole ma non c'è. Dormi ancora alla campagna, forse no. E sveglia, mi guarda, non so. Vorrei dedicare la canzone I Have a Dream a tutte le persone che hanno un sogno che sperano che si realizzi. Ci vediamo alla fattoria il 12. E questo è chiaro. Salvo da Bergamo. più sexy dell'universo. Silvia, sei la donna dei miei sogni. Il nostro gioco sta diventando qualcosa di più per me. Sì, sì. Vorrei diventare il tuo ragazzo. Mi hai stregato. Vorrei dedicare la passion alla mia coccinella e mandarle un caloroso bacio. Chicco. Benvenuti nel mondo che non c'è. Gigi, la tua musica trasmette un sacco di emozioni. Volevo dedicare a Luca Di Chieri Baci e abbracci. Claudia. Dal 27 aprile, in ogni dove, lento, violento e altre storie, il doppio CD di Gigi D'Agostino. Ora, la musica c'è.

questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Tranquillo, sei coperto. Ciao Gigi, sono Killian. Dedico Gets Noch a Stefania e Martina. Ci vediamo in Svizzera. Ok. Saluti da Monaco di Baviera. Gigi D'Agostino. Non giochiamo. Cammino di Gigi D'Agostino. Qui non abbiamo tempo da perdere. Wait. Gigi, perché non mi suoni Ripassa? Mettila per la compagnia del Cesare che si fa le serate su sta song. Sì, sì. Arma Kazam, Arma Kazam, Zan. E saluti a Elena Tanz. Gigi, il tuo cammino è un'ora di poesia in stereofonia. È vero, è vero. Oggi vorrei tornare indietro di qualche anno. Desidero dedicare Ripassa alla mia piccolina. Grazie da Lori. Cabassa, rimbau, cabassa, arau. Se volete scrivermi, passa, cabassa. 3-3-3-6-4-6-7-6-6-2. Ciao Gigi, sono Luca da Liscate. Vorrei dedicare Ho fatto un sogno a Rosy, perché a Latina abbiamo passato momenti bellissimi grazie alla tua musica. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Gigi, vorrei dedicare un brano a tua scelta a Mimì, Angel of GD, Winnie 87, Irene, Marcella, Valeria e Lily Fly With You, Prosecchina, Elisa Tanz e la mia gemellina Lady Blonde. Fanno tutte parte del meraviglioso forum gigidagostino.com e non so davvero come descrivere loro il bene che le voglio se non attraverso il nostro interminabile cammino. Davi DJ. Sogno di quelli strani, guardavo un cielo pieno di mani, mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire, mani che pensano, che vogliono dire che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani che mi donava il mio domani. Sabato e domenica si raddoppia l'evento del raduno emotivo Lento Violento. Sabato sera 12 maggio e domenica pomeriggio 13 maggio Gigi D'Agostino suona alla discoteca La Fattoria, Capriolo, Brescia. Discoteca La Fattoria, lascia che musica sia. Sono Veronica. Vorrei mandare un bacione a Manuel e Alessandro di Ferentino. Gigi, volevo dire a Cristiano che sono stata tanto bene con lui sabato sera e che sono contenta che ci accomuna lo stesso amore per la tua musica. Marta da Livorno. A volte mi parlano i miei occhi, La mia ragazza mi ha lasciato. Vorrei dedicarle per l'ultima volta Again. Jo. Di Gigi D'Agostino. Vorrei dedicare la canzone Solo in te alla mia ragazza Rosy e dirle che la amo tanto. Alberto da Roma. C'è qualcosa di strano nell'aria, forse solo una persona molto speciale, l'amour toujours. Da Trip a Yana con un grosso bacione. Gigi, fammi sognare con l'amour toujours. Ti prego, ci tengo troppissimo. Davide da Como. Volevo dedicare l'amour toujours alla mia sorellina Sofia, che oggi compie un anno. Ti voglio e ti vorrò sempre bene, piccolina mia. Teo d'Andre. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Because I live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly away. And I'll fly with you. Ragazzo di Moncalieri saluta due ragazze del raduno, quelle che si sono avvicinate alla mia macchina. We'll be right back. D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Sano. Ora c'è lui, DJ Provenzano.